a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, un saluto a tutti da Francesco Galante. Voi sapete che ogni settimana ci ritroviamo per parlare di appuntamenti, di cose interessanti dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Al telefono con noi oggi c'è Flavio Carlana, presidente del mandamento di Cittadella dell'Unione Provinciale Artigiani. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Signor Flavio, con lei vorremmo parlare delle prossime fiere che si terranno nel cittadellese, perché insomma ci sono degli importanti appuntamenti. Sì, abbiamo degli importanti appuntamenti nelle fiere in questo autunno. In ordine un po' cronologico, direi partire appunto dalla fiera che si terrà dall'8 al 9 ottobre prossimo a Gazzo Padovano, che è un tradizionale appuntamento organizzato dalla Proloco e dall'amministrazione comunale in collaborazione con varie attività, con le attività produttive, provincia e essenzialmente con diretti, insomma. Ecco. È una fiera franca, quindi non c'è solo il cibo e il divertimento, ma c'è anche la possibilità per gli artigiani e i commercianti di fare una mostra mercato. Sì, esatto, è un luogo dove si può proporre e esporre i propri prodotti all'interno di questa mostra, che praticamente fa da vetrina alle varie attività. Diciamo che Gazzo prevalentemente è orientata di più sul settore agricolo, sulle tradizioni agricole, ma anche sul settore artigianale, che può essere esposto all'interno della mostra mercato della fiera. Certo, questa è l'8 e il 9 che ottobre, quindi un sabato e la domenica. È una fiera che è apprezzata nel territorio? Sì, è una fiera apprezzata, una fiera che diciamo è preceduta anche addirittura dalla transumanza. Sì. Il sabato poi c'è l'apertura con delle specialità gastronomiche, diciamo nelle locandine è previsto anche di fanno anche le quaglie e lo spiedo. E la domenica è intensa, perché oltre alla mostra mercato coperta dell'artigianato ci sono varie attività di mostre di auto, trattori, giri turistici, vari tipi di attività che vanno ad evidenziare un po' tutti gli espositori. Questa cosa viene fatta dove? In centro proprio a Gazzo? Sì, viene fatto diciamo nella zona centrale di Gazzo e dopo viene dislocata in varie zone, diciamo anche periferiche, e a disposizione del pubblico ci sono sia volantini che le notizie anche sul sito del comune di Gazzo, del Proloco. C'è tutto un elenco di attività dove il pubblico può far sì che ci sia la scelta, ampia scelta su dove andare a vedere e quando partecipare. Ho capito. Adesso le chiederei di parlare anche di un'altra fiera, di un altro appuntamento importante, che è la Fiera di Cittadella. Sì, la Fiera di Cittadella, qua gioco un po' in casa, essendo proprio cittadellese. È una fiera che si terrà dal 22 al 24 ottobre, una fiera rinomata da tantissimi anni, risale all'epoca del 1300 addirittura, anzi 1200, e si terrà dal 22 al 24 ottobre nel centro e nelle zone periferiche di Cittadella, perché coinvolge tutta la città. Certo. È una fiera che sarà accompagnata da tantissime attrattive, in primis c'è il tendone, una tendastruttura che si trova nella zona di Villarina, dove saranno ospitati gli espositori di varie categorie, diciamo in primis le attività artigianali che la fanno un po' da padrone, e non per seconde comunque ci saranno tante attività commerciali ed agricole, diciamo con promozione pubblicitaria già da settembre, già da questo mese, che è già iniziata con diversi passaggi radiofonici e televisivi. Una cosa che notavo è che c'è ancora la possibilità, come dire, di inserirsi se uno ha un'attività commerciale o è un artigiano, insomma può partecipare alla Fiera di Cittadella, e c'è a disposizione un numero di telefono presso l'Unione Provinciale Artigiani proprio per avere ulteriori informazioni. Sì, in effetti siamo sempre in contatto con l'amministrazione comunale, con la Proloco che gestisce diciamo questi spazi. Abbiamo però il nostro funzionario di zona Andrea Fabris al numero di telefono della sede qui di Cittadella, che è disponibile a verificare se ci sono ancora posti disponibili, oppure anche dal semplice biglietto da visita come lo striscione pubblicitario che viene esposto all'interno degli stand, e dello stand dedicato a bancone enogastronomico, che è diciamo un po' un salotto quasi di Cittadella, perché è gestito veramente in maniera eccellente, diciamo è quasi un ristorante, che in questo spazio può anche essere presente, come dicevo, uno striscione, un banner eccetera di qualsiasi attività, generalmente insomma le nostre attività artigiane, che possono usufruire di questi spazi. Ecco, c'è una serie di costi per eventualmente sostenere queste iniziative, questi stand, ma eventualmente chiamando in sede Cittadella Andrea saprà dare tutte le delucidazioni del caso, insomma, per i nostri associati. Benissimo, leggevo che qui invece si parte il sabato 22 ottobre e si termina lunedì 24. Solitamente il lunedì la gente sta a casa, mi viene da dire, no? Invece forse non è così. No, non è proprio così, nel senso che a Cittadella è una tradizione che è molto molto lunga, di tantissimi anni, e addirittura viene considerata giornata festiva, diciamo, da noi nell'Alta Padovana. Perché lunedì è sempre stato ed è tuttora giorno di mercato, no? Noi a lunedì teniamo il mercato settimanale, e questo è un lunedì particolare perché, coincidendo anche con la fiera, viene portato avanti tutto il giorno, dove una volta a tutti gli effetti era importantissimo il mercato del bestiame, dove c'erano scambi eccetera, che c'è tuttora nella zona adiacente al cimitero, praticamente una zona verde e adiacente, comoda, vicino al centro, quindi c'è un collegamento sia al centro che le rive tutto intorno alla cinta murata, che alle giostre che sono nella zona delle piscine, dei centri degli impianti sportivi, e appunto, come dicevo prima, nel mercato degli animali è un tutt'uno che muove decine di migliaia di visitatori all'anno. L'anno scorso, se il tempo è buono, abbiamo sfiorato quasi 100.000 persone nei 3 giorni, insomma. Numeri importanti, mi sembra di capire, quindi, che anche ci sono molte famiglie con bambini, proprio perché magari è l'occasione per qualche bambino di vedere qualche animale e non solo, insomma. Certo, c'è la commissione di più attività, sia l'attività agricola con gli animali, sia l'attività ludica con le giostre, che tutti i banchi e la fiera di esposizione di prodotti artigianali, commerciali, agricoli, e non per ultimo anche la possibilità delle visite turistiche, del camminamento di ronda, che è importante per noi a Cittadella, che ha raggiunto importanti risultati in termini turistici, quindi praticamente sono 3 giorni veramente pieni. Allora, ricordo, dal 22 al 24 ottobre la fiera di Cittadella. Chiedo al nostro ospite al telefono di restare con noi, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo insieme. Almeno tu lo sai che mi cammini accanto in ogni mio momento, anche se sono stanco, mi sostieni piano, cerco nel vento la tua mano. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, è un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende. E il cuore mio si perde. Almeno tu lo sai, sei con me ogni giorno e mi sorridi se ti guardo. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni, come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'idea che tutto questo sia per sempre, per poi guardare avanti e non sentirci soli in un istante. Ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni, come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, è un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende. E il cuore mio perde. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con Francesco Galante stiamo parlando con Flavio Carlana, presidente del mandamento di Cittadella dell'Unione Provinciale Artigiani, al quale chiedo di illustrarci il terzo appuntamento che ci eravamo preposti oggi di presentare attraverso questa trasmissione. Parliamo di San Martino Attiva. Dal 18 al 20 novembre c'è la settima edizione della manifestazione fieristica di San Martino di Lupari. Sì. Dal 18 al 20 novembre prossimo, in effetti, ci sarà praticamente la fiera di San Martino Attiva, una manifestazione organizzata dalla Proloco di San Martino in collaborazione con l'amministrazione comunale, quest'anno che giunge alla settima edizione. È una fiera importante, ben attrezzata, che ho avuto il modo di vedere anche l'anno scorso, per gli espositori artigiani, dove hanno dei buoni spazi e ben allestita per tantissime aziende espositrici. Anche qui quindi c'è la possibilità di proporsi come attività commerciale e anche qua immagino, insomma, grande spazio all'enogastronomia, essendo autunno inoltrato, i prodotti che verranno distribuiti saranno penso diversi rispetto a quelli di questi giorni. Sì, è un periodo un po' più inoltrato, quindi i prodotti sono leggermente diversi. Per quanto riguarda il bancone gastronomico, sarà servito da un tipo di ristorazione ancora più autunnale, inoltrata. E comunque, diciamo, anche qui a San Martino, nello spazio all'interno dei tendoni e delle tendostrutture, sono gestiti in maniera oculata e ben rifinita, cioè ci si trova, ci si sente quasi a casa in un piccolo ristorante che propone i prodotti locali di degustazione appositamente dedicati. Oltre allo spazio gastronomico c'è anche una buona disponibilità, una bella disponibilità di spazio per le aziende espositrici che possono proporre i loro prodotti e le loro lavorazioni. Qui si comincia di venerdì, facciamo sì, una cosa diversa, dal 18 al 20 novembre, quindi venerdì, sabato e domenica. Esatto, venerdì, sabato, domenica. Queste attività sono anche queste valorizzate al meglio in questi spazi. Le aziende interessate che vogliono, diciamo, proporre i propri prodotti possono anche qui richiedere praticamente tramite l'Unione Provinciale Artigiani fino a fine ottobre, fino al 31 ottobre, possono comunicare la loro adesione. Abbiamo a disposizione il nostro funzionario di zona Andrea Fabris, che farà da tramite, darà tutte le informazioni necessarie, raccoglierà tutte le adesioni per poter partecipare anche qui ad autunno inoltrato a questa fiera che è sicuramente importante e non ultima tra le fiere dell'Alta Padovana.